la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 24 di gennaio sono le 16.35, primi 44 secondi, siamo in diretta da Radio 24, gli studi di Milano. Andiamo subito all'argomento del giorno, ricordo il numero verde per chi ci volesse dare le sue opinioni, 800 24 00 24, invece per gli sms, che come vedete poi provo a leggere in diretta, 349 238 6666. Oggi parliamo di fisco, in particolare parliamo di fisco perché ci sono due provvedimenti dei quali uno riguarda molte centinaia di migliaia di italiani, vengono adottati oggi in Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri comincia adesso, e questo provvedimento è la rottamazione delle cartelle Equitalia. Avete tempo per fino al 28 febbraio. È una sanatoria perché non pagate gli interessi, vedremo bene se avete capito e di spiegarvi altrimenti di che cosa si tratta. Ovviamente devo dire la verità, fino a stamattina neanche sul sito di Equitalia c'era una lista dettagliatissima e precisa di che cosa vi ricada, oppure no. Naturalmente la scusante è che il provvedimento è stato annunciato ieri, cioè sui giornali di oggi, ma va assunto ancora dal Consiglio dei Ministri con lo strumento formale, e questa è la prima cosa. La seconda misura è quella, anch'essa dal Consiglio dei Ministri di oggi, di questa emersione volontaria di chi avesse costituito patrimoni all'estero, soprattutto in Svizzera. Da lungo tempo il governo italiano aveva una trattativa in corso con la Svizzera, qui si aprono i termini per dichiarare fino all'autunno, fino al 30 settembre 2015, propri patrimoni lì costituiti, in caso però non ci siano stati da parte dell'amministrazione tributaria già accessi, ispezioni, verifiche verbali eccetera eccetera, e questa cosa avviene dopo un lungo studio fatto da Francesco Greco, il procuratore di Milano che è a capo del pool finanziario qui a Milano, adattando alla emersione volontaria di questi patrimoni un abbattimento molto consistente delle pene, che era già avvenuto nel nostro ordinamento recependo la direttiva, una direttiva comunitaria, e quindi in questo caso si può contare in buona sostanza su un via libera del penale, a patto che, qui, anche qui bisognerà vedere bene come è scritto il testo. Però noi partiamo da una terza cosa. La terza cosa è quella che ieri mi ha fatto fare un po' un salto sulla sedia quando ho letto che Gian Antonio Stella, grandissimo giornalista del Corriere della Sera, aveva dedicato un'intera pagina, partendo dalla vicenda della signora Angela Armellini, figlia di immobiliaristi, che a Roma è colpita da un'indagine tributaria con oltre 1200 unità immobiliari sottratte per anni e anni al fisco, e descrivendo questa vicenda Gian Antonio Stella diceva: in Italia non si va in carcere per reati tributari, quando impareremo la lezione dagli altri paesi, il solito caso americano, Leona Hems, i 16 anni di carcere eccetera eccetera, da noi non si va in carcere per i reati tributari. E io sono convinto che molti di voi, perché questo mi arriva dall'SMS quando vado in televisione, così sono convinti che in Italia così sia. A me non sembra proprio vero. Primo, non solo perché nel nostro ordinamento abbiamo una sequenza, una sfilza di reati tributari penali che è una delle più lunghe di tutti i paesi avanzati, ma perché se uno va a vedere i dati, questi sono dati che potrete controllare anche al Sole 24 Ore, vedrete che in 5 anni i dati ufficiali sono di 987 arrestati, quindi in fase preliminare delle indagini, per reati tributari, e di 607 condannati in via definitiva a pene detentive. E la cifra è del resto confermata anche da quello che ci ha detto la Guardia di Finanza di ieri sul suo report 2013. Anche nel 2013 più di 200 individui arrestati, quindi in fase di provvedimenti di polizia giudiziaria cautelare per reati tributari. Allora, se 987 arrestati e 607 condannati in 5 anni vi sembrano pochi, io questo non lo so, anche perché negli stessi 5 anni le segnalazioni dell'amministrazione tributaria a diverso titolo, Agenzia delle Entrate, Demanio, Patrimonio e così via, le procure sono state oltre 50.000 addirittura. Però forse li vorrete fucilare, penserete che i 607 condannati hanno delle pene troppo leggere, ma in realtà non è vero che non si va in carcere. Poi quanto pesanti siano le pene, questo lo decidono i giudici, perché le pene edittali sono anni e anni, sapete, in quello che c'è scritto nel codice. Allora, su tutto questo complesso di cose abbiamo chiesto a un esperto, perché immagino che le domande siano un po' precise, quindi abbiamo bisogno di farci guidare tra la rottamazione delle cartelle, la nuova operazione di rientro dei capitali dalla Svizzera, ed è con noi, e molto lo ringrazio, Claudio Siciliotti, dottore commercialista, per anni e anni anche presidente dell'Ordine. Buon pomeriggio, Siciliotti. Buon pomeriggio a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Ma ha fatto un quadro abbastanza ampio della situazione attuale. Oimè, posso farne un commento immediato? No. Certo. Allora guardi, la prima cosa che mi sentirei di dire, sia il provvedimento sulle cartelle Equitalia, sia il provvedimento che non rinunciamo mai a chiamare in lingua inglese, chiamiamo voluntary disclosure, perlomeno prevedono il pagamento delle imposte. Cioè non hanno la natura di altri provvedimenti che hanno caratterizzato il passato, per cui a questi risultati si raggiungeva neppure pagando integralmente il proprio conto con lo Stato. Quindi non sono condoni. No, ecco, detto in altre parole, non sono condoni, quindi questa è la prima cosa che mi sentirei di dire. Viceversa, sul report della Guardia di Finanza e su quei 52 miliardi di ricavi non dichiarati o costi non deducibili emersi, quello che dà perplessità è il raffronto con i numeri stimati dell'evasione. Noi parliamo spesso di un'evasione circa da 120 miliardi di imposte non imponibili. Non il Sole 24 Ore, questa volta il Corriere della Sera di oggi lo stima l'evasione delle imposte evase in Italia in 180 miliardi. E allora io vorrei, questa volta faccio una domanda: è vero? Io ho la sensazione che questo possa non essere vero e che noi immaginiamo di avere una sorta di tesoretto raggiungibile che forse non c'è. Perché mi domando, con tutti i controlli che oggi ci sono, con l'informatica, con il lavoro della Guardia di Finanza, con la montagna di adempimenti, ma chi è? Mandrake che riesce a sfuggire a tutto questo? Io ho il dubbio che noi forse ci costruiamo un castello immaginando che esista una ricchezza da aggredire che forse non è così consistente. Questo mi sentirei di dirlo. Poi un'altra riflessione quando parliamo di evasione. Perché noi accomuniamo un po' tutto. Allora a me piace dire che ci sono almeno tre tipi di evasione. L'evasione da frode, e quindi quando io metto in piedi un castello di documenti anche fasulli per cercare di ottenere un risparmio di imposte che altrimenti non avrei, e questo è un discorso estremamente grave, e come lo è molto più banalmente limitarsi ad occultare dei ricavi. Ricevo 10 e dichiaro 5, pur senza mettere in piedi dei raggiri. In entrambi questi casi c'è un comportamento volontario e consapevole del contribuente, quindi a mio giudizio merita tutta la gravità delle pene che oggi esistono dal punto di vista penale, oltre alla riscossione provvisoria. Ma il terzo caso, anche documentato dal report della Guardia di Finanza, quello del disconoscimento giuridico di costi. Io i costi li ho sostenuti, ma qualcuno mi dice questo costo non è inerente, questo costo non è integralmente deducibile, questo costo non è esattamente di competenza dell'anno in cui l'hai collocato, ma il costo l'ho sostenuto, il costo esiste. Ecco, forse in questi casi sui quali non si fa distinzione, meriterebbe che si intervenisse sul fronte penale e anche sul fronte della riscossione provvisoria. Forse quella famosa compliance, quell'adeguamento spontaneo alle norme di legge, sarebbe enormemente facilitato se, oltre al pugno duro che giustamente deve essere fatto per i casi di evasione consapevole e volontaria, si accompagnasse una comprensione di aspetti che possono non configurare una volontà del contribuente, ma un'oggettiva incertezza nella norma, una difficoltà di applicazione, e lo sappiamo benissimo quante difficoltà ci sono, e quindi essere viste in una maniera nettamente diversa. Senta, la domanda che le faccio, poi andiamo al minuto di interruzione di circolazione stradale. Nella sua esperienza, in tanti anni, perché? Che idea si è fatta di questa specie di mito italiano per il quale invece in Italia non si va in carcere per ragioni fiscali, quando invece poi i numeri sono quelli che hanno visto? Da che cosa dipende? È una cosa che ci raccontiamo sempre perché puntiamo sempre il dito contro quello a fianco verso cui lo Stato dovrebbe essere più duro, siccome non è duro, naturalmente questo spiega le stime così generose dell'evasione, secondo me, io sono d'accordo con lei, un po' troppo generose, oppure da che cosa dipende il fatto che continuano a ripeterlo? Intanto però, strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:46 primi 47 secondi, prima di dare di nuovo la parola a Claudio Siciliotti, commercialista, su come mai però la gente sia convinta che poi in Italia non si finisca a pene detentive o arrestati in fase di indagini preliminari per reati tributari. Sentiamo cosa ci dice il nostro ascoltatore Daniel, che chiama da Milano. Prego Daniel. Sì, buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori. Ma io vorrei capire, a fronte di questi 180 miliardi, che anche se non fossero 180, sono comunque un numero spaventoso, lei parlava di 608 condannati in 5 anni. Sì. Io vorrei capire quanti di questi 608 poi effettivamente tra sconti di pene, indulti, condoni o magari perché hanno un'età avanzata, come il nostro ex presidente del Consiglio, poi vadano effettivamente in prigione. E comunque sono molto pochi, cioè non c'è un deterrente efficiente. In Italia non va in prigione nessuno, ha ragione il Stella e Rizzo nel loro articolo. Beh, perché altrimenti se avesse paura, la stessa condanna per frode fiscale di Berlusconi, che io trovo assurdo che un paese civile abbia un presidente del Consiglio condannato, credo che fossero state la condanna nell'ordine di 6-7 milioni, perché tutto il resto era prescritto, amnistiato o condonato. Cioè, capisce che quando sento questi numeri, 608, mi perdoni il francesismo, io mi incazzo, perché io sono un dipendente e le tasse le pago. Ho capito, ma il problema, mi scusi, aspetti un secondo. Certo. Cioè, lei sta descrivendo una situazione generale, e sono completamente d'accordo con lei, a cominciare dal giudizio su Berlusconi, ma quella è un'altra cosa, in cui è il sistema della giustizia in generale che contempla una bassa deterrenza rispetto alla sua inefficienza, anche alla situazione del nostro sistema carcerario, perché poi non tendiamo a non dimenticare quelle 63.000 che sono lì dentro invece che 47.000, per cui il capo dello Stato chiede una misura di clemenza. Però questo riguarda tutte le fattispecie di reato, mentre invece la convinzione è che è per fisco che non si vada in carcere nel nostro paese, tant'è vero che si dice in America sì. No, anche per fisco ci sono, ripeto, decine e decine di migliaia di segnalazioni alle procure. Le procure indagano, arrestano in fase preliminare, i giudici condannano. Poi, ripeto, lei dice, ma quanti davvero ci vanno? Questo riguarda la generalità dell'inefficienza però del nostro sistema penale. Però sentiamo su questo, molto più competente di me, cosa ne pensa Claudio Siciliotti. Prego. Allora, io penso che questo è in generale un paese in cui si va in galera più in attesa di giudizio che a giudizio effettivamente concluso, e anche l'evidenza mediatica di tutto questo è nettamente superiore. Forse la percezione è bassa perché le persone che i 608 non sono persone famose, basta che una di questi sia famosa e viceversa l'evidenza mediatica esiste pure un Maradona qui, di cui hanno tanto parlato e che si è anche permesso qualche gesto in urbano nel dover commentare la sua situazione. Voglio solo una battuta, la sanatoria Equitalia converrebbe proprio a lui, perché il suo debito col fisco è fatto prevalentemente di interessi, esatto, e non tanto di capitale, quindi sembrerebbe quasi fatta per lui questa cosa. E quindi insomma, io credo che forse la cosa su cui ci dovremmo interrogare è questo gap che esiste tra i 12-13 miliardi di recupero effettivo e quei 120 o 180 che, di cui ci interroghiamo se esistono. Esistono tutte queste stime e le riteniamo attendibili, ma che cosa ci manca per arrivare a quelli? Che cosa dobbiamo mettere in campo per arrivare a tutto questo? Ecco, io credo che nel momento in cui l'obiettivo raggiunto è pari a un decimo del totale, forse ci dovremmo anche interrogare che cosa ci manca per conseguire gli altri nove decimi. piuttosto che gloriarci di avere conseguito, esatto, uno su 10. Io devo dire la verità, questo non so come la pensa lei. Io credo che noi siamo malati di un apparato, per così dire, statistico contabile, in base al quale si fanno queste simulazioni delle imposte evase, che ha molte pecche. Dico subito il perché, perché a chi sta a casa. Ipotizzare 180 miliardi di imposte evase, sia pure con aliquote, naturalmente a seconda del tipo di imposte, prendiamo le aliquote marginali, quelle più ampie per così dire, allora voi capite che significa che i redditi non dichiarati, con una proporzione tecnicamente non perfetta, ma tanto per capirci, dovrebbero essere, diciamo, nell'ordine di grandezza di tre volte tanto. Ecco, tre volte tanto, se fate 180 per 3, fate la moltiplicazione e siamo a 540 miliardi. 540 miliardi su un PIL più o meno di 1500 miliardi significa più del 33% del PIL. Allora, non c'è neanche la peggiore stima degli osservatori internazionali, la più alta stima del nero italiano attualmente tra le diverse forbici, perché vengono elaborate dall'OCSE, c'è uno studio del Fondo Monetario Internazionale e così via, ma ce n'è uscita una aggiornata pochi mesi fa verso l'autunno del 2013 tedesca, che ci dava al 25-26%. In Italia siamo arrivati al punto di dire che c'è il 33%, però sono tutte stime fatte su una base che a me pare molto molto azzardata, perché a fronte di questo, quello che Siciliotti, e torno a Siciliotti, si diceva all'inizio, su quei 57 miliardi di reddito occultato che ha detto ieri la Guardia di Finanza di avere riscontrato nel suo bilancio di attività nel 2013, 57 miliardi di reddito, non di imposte evase, tenete conto che se levate a quei 57 miliardi occultati quelli dei costi non deducibili e costi non dichiarati, che sono 15, quindi quasi un terzo, e riducete a quel punto dei 57 miliardi, fate 57 miliardi meno 15, ecco che arrivate a 45 miliardi, 45 miliardi di reddito nascosto, dice la Guardia di Finanza, 45 miliardi rispetto ai 500 che dovrebbero essere almeno per fare 180 miliardi di imposte evase. Significa immaginare che la Guardia di Finanza, che tutti noi vogliamo efficace, efficiente eccetera, riesce a beccare solo un decimo. Secondo voi è credibile questo? Non lo so, Siciliotti, per lei è credibile? No, e l'ho già detto all'inizio, anche perché questo poi influenza il dibattito politico e influenza le scelte, perché c'è chi dice per recuperare il gap bisogna tagliare la spesa, e io sono assolutamente tra questi, e c'è chi dice per recuperare il gap basta andarsi a prendere l'evasione fiscale, perché ci sono lì 100 miliardi belli pronti, basta fare un passo. Io sono convinto che questo non sia vero. E noi andiamo a rincorrere una cosa che in realtà non è ottenuta, in parte perché è fisiologica, cioè la Germania, voglio dire, è la seconda, se in questa classifica, esatto, di miliardi evasi, la Germania arriva subito dopo di noi, evidentemente con tutto un altro PIL, certo, è certo, chiaro, però arriva subito dopo di noi, quindi una parte è fisiologica. E poi il dato di fondo è irreale, e quindi se andiamo a inseguire questa chimera, credo che facciamo anche delle politiche alla fin fine sbagliate, vessatorie, che fanno sentire i cittadini sempre più estranei a questo Stato. Io guardi, faccio una professione, sto in mezzo agli imprenditori, io questa evasione non la vedo. Con tutti i sistemi che ci sono oggi, cioè non la vedo, francamente. Io lo so che il nostro ascoltatore lavoratore dipendente non ci crede che è così, però io anche nella mia modestissima esperienza di microimprenditore, guardate, il commercialista a me dice ci conviene pagare di più e non di meno, questa è la mia esperienza, Siciliotti, eppure la gente lavoro dipendente vessata dal prelievo non ci crede. Non ci crede, ma è la verità. Assolutamente la verità. Poi esisteranno delle ingegnerie internazionali, per carità, le frodi Carosello, certo, tutte quelle cose lì, ma voglio dire, allora fai dei reparti specializzati che studino questi fenomeni e riescano ad acquisire la possibilità di... E qui stiamo parlando del segmento di impresa in cui si concentra la vera cosa, quella delle grandi società di capitale, perché lì sì c'è ancora secondo me molto. Massimo La Macerata era in attesa di dire la sua, ma purtroppo il tempo non c'è. Io saluto e ringrazio Claudio Siciliotti, guardate se siete nell'elenco delle cartelle rottamande, e per il resto non cambiate idea quando lo Stato vi fa le tasse retroattive, è lui che vi sta fregando. Appuntamento lunedì.